Storie italiane. Mulan. Molto tempo fa, nella Cina di Han, viveva Fa Zhao. Era un guerriero dell'esercito imperiale. Aveva una bella figlia di nome Mulan. Mulan amava l'armatura di suo padre, la indossava sempre e si ammirava allo specchio. Oh Mulan, che stai facendo? Padre, perché non posso essere un guerriero come te? Perché alle donne non è permesso combattere in battaglia, figlia mia. Possono farsi male, devono prendersi cura della casa. Ma le donne possono essere brave in battaglia. Sì, figlia mia, ma il generale non permetterà mai a una donna di andare in guerra. Un giorno, l'imperatore della Cina di Han venne a sapere che gli Unni avrebbero attaccato l'esercito. Gli Unni erano guidati dallo spietato Shan Yu, che voleva prendere la loro terra. Il nostro esercito non è abbastanza grande. Voglio almeno un membro di ogni famiglia per combattere questa guerra. Più sono e meglio è. Presto la parola si sparse e un membro di ogni famiglia fu mandato in montagna per allenarsi sotto il generale. Ma tornando a casa di Mulan, accadde qualcosa di inaspettato. Oh, devo andare. Questi sono gli ordini dell'imperatore. Ma tu non stai bene. Come combatterai la guerra? Non importa. Il mio paese e la mia gente hanno bisogno di me. Partirò domani. No, mio padre è così malato. Queste sono montagne difficili. Non è in grado nemmeno di arrivare al generale. Il mio paese è in pericolo. Ma non posso lasciare che mio padre faccia questo. Mulan non aveva intenzione di mollare. So cosa devo fare. Andrò ad allenarmi in montagna. Combatterò per il mio paese e distruggerò gli Unni. Mi dispiace, padre. So che sarai furioso con me al mattino, ma non posso perderti e nemmeno posso vedere sconfitto il mio paese. Perdonami per non averti ascoltato, padre, ma se devo combattere questa guerra come un uomo, questo è quello che farò. E così la coraggiosa Mulan si avviò verso il generale dell'esercito imperiale. Sapeva che le donne non potevano combattere, ma sapeva anche che il suo amore per il suo paese e per suo padre venivano dal profondo del suo cuore. In questo momento non le importava di essere uomo o donna, era una guerriera. Hai detto che il tuo nome è Cheng, è corretto? Come sono le tue abilità in battaglia? Sì, generale, Cheng. Le mie abilità di combattimento potrebbero non essere così acute come i guerrieri altamente qualificati, ma credetemi, non vi darò modo di lamentarvi. Apprezzo la tua passione, Cheng. Domani inizieremo il tuo allenamento. Mulan era determinata, forte e ostinata. Si era allenata duramente per affinare le sue abilità con la spada. Era una persona che imparava rapidamente. Quando tutti gli altri riposavano, lei praticava le sue abilità. Mulan fu presto accettata nell'esercito come un uomo. I suoi compagni guerrieri amavano la sua sicurezza e il suo amore per il paese. Ma c'era qualcun altro che era colpito dall'allenamento di Mulan. Era il drago guardiano Mushu. Mushu fu inviato per aiutare Mulan dai suoi antenati. Quando Mulan lasciò la sua casa tra le montagne, sua madre l'aveva vista andarsene. Spaventata, pregò immediatamente gli antenati. Oh, salvatela! Proteggete mia figlia! Non preoccuparti. Lei è una ragazza coraggiosa. Lei ha un cuore d'oro. Mushu è un drago guardiano. Si prenderà cura di Mulan. Ed è così che Mushu tenne sempre sotto controllo Mulan. Mulan non aveva idea di avere un drago guardiano, ma Mushu non la perdeva mai di vista. Ah, guarda quanto è brava! Merita la possibilità di dimostrare le sue capacità. Mushu decise così di scrivere una lettera falsa ordinando a Li Shan di marciare verso le montagne. Gli Unni hanno attaccato la città. Ci viene ordinato di marciare verso le montagne e distruggere il resto dei loro clan. Le truppe marciarono attraverso le montagne, ma non sapevano che questo era un grosso errore. Gli Unni non avevano attaccato la città. Si erano tutti nascosti nella montagna, sperando che l'esercito imperiale facesse un errore. Gli Unni attaccarono l'esercito imperiale, che aveva un numero di soldati molto inferiore rispetto agli Unni. Combatterono e combatterono, ma fu inutile. Ad un tratto... Un momento, ho un'idea! Mulan prese l'ultimo cannone e sparò tra le montagne. Questo provocò una valanga che sepolse gli Unni sotto la neve. Sì, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Ma il cannone aveva ferito anche Mulan. Cadde a terra. Tutti si riunirono intorno a lei. Mentre un guerriero cercava di prenderla, il suo elmetto si staccò e i suoi lunghi capelli lucenti ora soffiavano nell'aria. Oh, non sapevo che Cheng avesse i capelli così lunghi. Ah, il mio elmo! Dov'è il mio elmo? Cosa è successo alla tua voce, Cheng? Ti sei fatto male alla gola? Aspetta, non sei Cheng! Tu non sei un uomo, sei una donna! Dimmi, chi sei tu? Oh, mi dispiace tanto, generale. Io non sono tuo nemico. Io sono Fa Mulan, figlia di Fa Zhao. Mio padre era malato e non volevo che si ferisse ulteriormente. Amo il mio paese, ma alle donne non è permesso combattere. Così mi sono travestita da uomo per poter combattere in guerra. Non volevo farvi alcun torto. Ma hai fatto qualcosa di sbagliato. Ci hai tradito. Risparmierò la tua vita perché hai aiutato a sconfiggere gli Unni. Ma non puoi più combattere. Vai al tuo villaggio in questo istante e non tornare mai più. Mulan era completamente distrutta. Mushu seguì così Mulan. Mentre attraversava le montagne, Mulan udì alcune voci strane. Mentre seguiva quelle voci... Oh no! Gli Unni sono ancora vivi! No! Stanno marciando verso la città! Devo avvertire il generale! Mulan corse verso Lishan. Generale! Generale! Tu! Come osi tornare? Generale, gli Unni sono vivi! Stanno marciando verso la città! Il nostro imperatore è in pericolo! Non ho più motivo di fidarmi di te! Vattene! No! Per favore! Cosa faccio adesso? No! Non accetterò la sconfitta! Devo provare! Salverò il mio imperatore e il mio paese! Mulan era determinata a fermare gli Unni da sola. Prese il suo cavallo e partì per la città. Nel frattempo... Perché dovrei fidarmi di Cheng? Anzi, di Mulan adesso. Lei però ha salvato il mio esercito e ha mostrato eccellenti abilità con la spada. E se stesse dicendo la verità e l'imperatore fosse davvero in pericolo? Non posso permettere che questo accada. Non come al comando. Porterò il mio esercito verso la città proprio adesso. E quindi Mulan partì per proteggere la sua città e l'imperatore dagli Unni. E lo stesso fece l'esercito imperiale. Quando Mulan entrò in città, vide che alcuni Unni avevano già oltrepassato le porte. No! Questo significa che Shan Yu deve essere già entrato nel palazzo. Devo salvare il nostro imperatore. Mulan si affrettò verso il palazzo e scoprì che il suo imperatore era già stato catturato. No! Cosa faccio ora? Un momento, ho un'idea. Oh, il possente Shan Yu! Sono così felice di vederti vivo. Cosa? Cosa vuoi dire con questo? Nessuno può farmi del male, bella signorina. Questo è quello che ho detto. Ma continuava a ridere e diceva che tu non sei niente in confronto a lui e che tu... Aspetta! Lui chi? Cheng! Cheng? Chi è Cheng? Il guerriero dell'esercito imperiale. Quello che ha sepolto i tuoi soldati sotto la neve sulle montagne. Oh, quel piccolo uomo! Sì, ha detto anche che se tu non sei morto, ti sfiderà e ti sconfiggerà con le sue stesse mani. Ma lui non sa che sei vivo. Lui è sulla cima. Perché non mi segui lì e lo attacchi per primo? Sì, buona idea. Soldati, non lasciate andare l'imperatore. Fammi vedere quanto è bravo questo Cheng. Shan Yu seguì Mulan sulla cima. Mulan lo spinse immediatamente da dietro e tirò fuori la sua spada da sotto i suoi vestiti. Cosa? Dov'è quel Cheng? E perché stai tenendo una spada? Cheng, quello che ha sepolto i tuoi soldati sotto la neve è proprio di fronte a te, Shang Yu. Come osi attaccare la mia gente, ti sconfiggerò proprio qui. Una donna guerriera! Perché? Hai paura perché sono una donna? Non ti preoccupare, non sarò affatto gentile con te. Come osi? Shen Yu fu sconfitto. Mulan scese per salvare il suo imperatore, ma con sua sorpresa... Generale Li Shan! L'imperatore era già stato liberato dal generale Li Shan e dal suo esercito. Tutti vennero a sapere che Shen Yu non c'era più. Gli Unni furono arrestati e messi in prigione. La gente ballò e applaudì per la vittoria sugli Unni. La Cina di Han gioì per il loro coraggioso guerriero. Fa Mulan. Le venne così donato lo scudo dei coraggiosi dell'esercito imperiale. Mulan accettò il dono, ringraziò l'imperatore e tornò dalla sua famiglia. Oh Mulan, siamo così felici che tu sia al sicuro. Ci hai spaventato. Perdonami, padre. No, figlia mia, ci hai resi orgogliosi. Anch'io sono orgoglioso di te. Cosa? Tu chi sei? Sono un drago guardiano. Mi occupo sempre di coloro che hanno lo spirito per dimostrare chi sono. Hai mostrato coraggio, puro amore verso tuo padre e il tuo paese. Sei una vera guerriera. Hai dimostrato che la donna può fare qualsiasi cosa se ci mette la passione. Sì, e sono orgoglioso di avere una figlia.